Se devo essere sincero, il discorso della dentatura, cioè nel senso che si sostiene che i denti di una femmina sono diversi da quelli del maschio, questa è una cosa non proprio così sicura come hanno detto, quindi su questa cosa qui un po' resto perplesso. Se però hanno in mano delle indagini genetiche fatte bene, vorrei ricordare che JJ4 era figlia di fondatori, infatti porta nel nome le iniziali dei due genitori. Si hanno delle indagini genetiche fatte bene, dove si dice o si sostiene che JJ4 non è stata campionata bene, o non era lei, oppure non sono riusciti a risalire al genitore, non poteva essere lei. In questo caso, beh, credo che per Fugatti le cose si complicheranno davvero tanto, anche perché lui ha catturato un'orsa prima di avere l'autorizzazione del TAR, cioè lui ha messo le mani avanti, come si suol dire, e quindi se l'orsa dovesse essere innocente o la procedura dovesse rivelarsi imperfetta, dal momento che un orso una volta catturato difficilmente può essere liberato, beh, in quel caso lì Fugatti si troverebbe davvero in cattive acque, perché lì si potrebbero anche chiedere dei danni, e per un orso sono cifre molto ma molto consistenti, soprattutto per un orso come JJ4 che è una figlia dei fondatori e che ha un patrimonio genetico integro, cioè completamente assente da tracce di consanguinità, cosa che la maggior parte degli orsi in Trentino non possiede questo vantaggio. A proposito di danni, quando fu catturata JJ4 era in presenza dei tre cuccioli che appunto invece sono stati lasciati liberi. Si era discusso molto sul fatto se ce l'avrebbero fatta oppure no, perché non avevano ancora compiuto 2 anni. Cosa succede in questi casi? I cuccioli avevano 1 anno ed erano entrati nel 2º anno di vita. Il fatto che i cuccioli molto piccoli possano sopravvivere a quell'età abbandonati dalla madre è una leggenda tutta italiana, perché è già successo moltissime volte di catturare delle orse con i cuccioli, di lasciare liberi i cuccioli, e alludo alla stessa Danica. Danica aveva 2 cuccioli al seguito, inizialmente erano 3, poi diventarono 2, e la stessa KJ2, l'altra orsa battuta con un colpo di fucile, aveva dei cuccioli al seguito. Ecco, in tutti questi casi erano cuccioli giovani che sono stati lasciati da soli senza la madre, quindi questo è molto grave, perché non è solo una questione di svezzamento ma anche di educazione. Quindi tanto il cucciolo non si può difendere, per cui adesso ci sono i maschi in giro e sono nel loro periodo riproduttivo, per cui cosa succede? Quando incontrano un cucciolo lo uccidono, perché vogliono che la femmina torni in estro. Quindi liberare 3 cuccioli in questo momento, in una fase così delicata, vuol dire esporli molto a una roulette russa: incontrano il maschio e finita. E poi c'è tutto il discorso che la madre insegnava ai cuccioli a essere elusivi, cioè quindi a non avvicinarsi alle case, a procurarsi il cibo da soli, trasmetteva ai piccoli quella che può essere considerata una mappa cognitiva alimentare. In 3 anni dimostrava tutti i luoghi non frequentati dall'uomo dove i cuccioli si potevano procurare del cibo, onde per cui è molto probabile che se anche i cuccioli miracolosamente dovessero salvarsi, hanno alte probabilità di diventare dei cuccioli confidenti e quindi essere, creare poi dei danni al patrimonio, avvicinarsi alle abitazioni e quindi essere poi catturati anch'essi nel corso del tempo. Quindi mi pare di capire che le politiche di Fugatti siano fallimentari da tutti i punti di vista. Sono fallimentari, ma sono anche pretestuose, secondo me. Cioè loro fondano tutto sulla presunzione che ci sia un pericolo imminente, e lì è tutto relativo. Cioè bisogna comunque ricostruire le circostanze, i fatti, cosa che loro già ai tempi di KJ2 dichiararono di non voler fare. Se tu non ricostruisci i fatti, fai fatica ad avere una gestione che è sopra le parti, a non combinare dei guai come magari catturare un'orsa che non c'entra niente. Questo è il punto, diciamo, il nocciolo della questione, che loro non vogliono approfondire mai le circostanze, per cui è come se un vigile urbano non andasse mai a accertare la dinamica di un incidente, per cui il veicolo coinvolto, quello che sopravvive, ha colpa a prescindere. L'orso, ecco, in Trentino per Fugatti è colpevole di esistere, quindi già condannato. Questa è un po' la situazione che si trova a dover affrontare il povero orso, avendo a che fare con questo signore che assolutamente non li vuole, tanto è vero che faceva le grigliate a base di carne d'orso. Questa è una situazione drammatica, drammatica.